Progress, quando la tecnologia diventa per tutti. Sbattuti e stanchi di guerreggiar tant'anni e risospinti ancor da fati, i greci condottieri all'insidie si diero e da Minerva divinamente istrutti un gran cavallo di ben contesti e ben confitti abeti in sembianza d'un monte edificaro. Forse qualcuno di voi avrà riconosciuto il brano appena recitato. È il secondo canto dell'Eneide, quello in cui si racconta del cavallo di Troia. Si sono forse ispirati a questo mito i ricercatori dell'Università del Michigan, guidati dall'oncologo James Baker? Con le loro ricerche, infatti, hanno messo a punto delle particelle molecolari che riescono a ingannare le cellule tumorali, facendo in modo che le interpretino come sostanze nutritive. Ma una volta all'interno della cellula, il principio attivo del nanofarmaco entra in funzione e la distrugge. Un procedimento molto semplice che agisce alla radice del male. Molto si è già fatto, ma non possiamo ancora affermare che le cure mediche siano uguali per tutti. L'accesso a terapie particolarmente efficaci dipende dalla disponibilità economica del paziente. Macchinari costosi e sofisticati disponibili solo in alcuni centri, terapie molto lunghe, tanti farmaci usati. Per alcune patologie e in prospettiva forse per gran parte delle malattie, oggi si sta assistendo a una vera rivoluzione, i nanofarmaci. Progress vi aspetta domani alle 18:30 su Radio 24, in collaborazione con Ford.